volta. La frase dell'anno tesoro è questa, l'hai vinta. Lascia stare, non ti sfinire. Perdi tempo qui, io non chiedo cortesie. Hai girato più volte la ruota della fortuna, ma peccato la sorte stavolta non è quella buona. Lascia stare, non ti sfinire. Puoi fumare un po', ti rallegra l'animo. E noi rimaniamo qui a pretendere che ci sia sole. Continuiamo a vivere senza accorgerci che fuori piove. Credimi quando ti dico che non hai più scelta. Lascia stare, non mi spinire, no. Sei di troppo qui, porta via la tua poesia. E noi rimaniamo qui a pretendere che ci sia sole.